Rassegna Stampa Europa. Buongiorno da Giulia Crivelli e benvenuti alla nostra rassegna stampa europea. Si avvicina al voto delle elezioni europee che sarà il 25 maggio, quindi sempre più importante, come vi ricordo sempre, insomma, tenere d'occhio questa nostra Europa. E cominciamo dalla questione dell'Ucraina, e anche qui la cronaca ci supererà inevitabilmente sempre, quindi forse un pochino più interessante vedere, cercare di capire magari qualche analisi, sentire qualche parere. Naturalmente i due grandi attori sono la Russia da una parte, il governo ad interim ucraino dall'altra, e poi l'Unione Europea e gli Stati Uniti. E allora su Russia Today il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov ha accusato gli Stati Uniti di guidare le scelte di queste nuove autorità di Kiev, che lui naturalmente definisce filo occidentali, e implicitamente, ma neppure tanto implicitamente, ha detto che non c'è ragione per la quale gli americani dovrebbero condurre così i giochi, e l'Unione Europea, che invece appunto potrebbe avere un ruolo molto maggiore, non ha il ruolo che si auspica Lavrov. Poi forse è tutto da vedere se una volta che l'Unione Europea prendesse una posizione un pochino più forte sarebbe gradita alle autorità russe, perché sembra più che altro che ciò che è gradito è ciò che è gradito a Mosca, appunto il colloquio vero, la diplomazia vera, lo scambio vero di opinioni è una cosa che al ministro degli esteri russo, al suo governo e al suo presidente Putin non sembra molto familiare. Dall'altra parte abbiamo sempre anche per la questione ucraina una notizia che è uscita sulla Ostsee-Zeitung, che è un giornale tedesco, dove si annuncia che la cancelliera Angela Merkel riceverà il presidente francese François Hollande. Questo succederà il 10 maggio a Stralsund, che è una piccola città sul Mar Baltico, che è nell'attuale collegio elettorale di Angela Merkel. Sapete che Angela Merkel è originaria è cresciuta nella Germania dell'Est, però ormai da credo tre turni elettorali il suo collegio elettorale è appunto sul Mar Baltico. È un posto che le è molto caro, dove ha già ricevuto in passato il presidente americano Bush nel 2006 o nel 2012 Jean-Claude Juncker, che era il presidente dell'Eurogruppo e tra l'altro candidato alla presidenza della Commissione Europea, e anche alcuni reali. Con Hollande la Merkel parlerà anche della crisi ucraina. Infatti la posizione della Francia, come del resto purtroppo quella di altri paesi, e come quella dell'Unione Europea, perché abbiamo questo problema di non riuscire a parlare con una sola voce, non è chiarissima. Ma la crisi ucraina, come sappiamo benissimo, non si placa. C'è stata questa breve tregua pasquale, ma non è stata assolutamente risolutiva. Passiamo ai quotidiani francesi, visto che abbiamo parlato del presidente Hollande, e qui ci spostiamo sul partito dell'opposizione. In questo momento il presidente del partito dell'ex presidente Sarkozy, il principale partito del centrodestra francese, che è l'UMP, e quello che secondo Le Figaro succederà è che anche in risposta alle crescenti pressioni che anche in Francia ci sono alle frontiere per l'immigrazione, che non è facile da controllare in Italia, che ha, come sappiamo, tutti i confini marini da pattugliare, ma non è facile da controllare neanche in Francia, anche se loro hanno una storia di immigrazione molto più lunga della nostra. Ecco, secondo Le Figaro, l'UMP intenderebbe proporre la creazione di un commissario europeo all'immigrazione. Se ne parla da tempo, però non c'è mai stato in realtà questo commissario. C'è Frontex, ci sono alcune misure, ma non una vera e propria struttura. Questo commissario sarebbe a capo dell'Agenzia Europea dello Spazio Schengen, che sapete è lo spazio all'interno del quale noi europei ci possiamo muovere liberamente, incaricato dell'armonizzazione delle politiche sui visti, sugli scambi di informazioni e sul diritto d'asilo. L'agenzia, secondo una bozza che appunto starebbe mettendo a punto l'UMP, avrebbe il potere anche di stabilire delle sanzioni e la sospensione o addirittura l'esclusione di uno stato inadempiente. E qui prevediamo grandi problemi all'orizzonte, perché ci sono appunto stati che per ragioni geografiche sono più esposti all'immigrazione e stati che lo sono meno. Ma sempre per restare in Francia, ma cambiando un pochino argomento, anche se l'argomento è poi sempre quello di quello che ci aspetta dopo le elezioni. Sapete che ci sono molti sondaggi, poi se abbiamo tempo ne citeremo uno, il più recente. Nel nuovo Parlamento europeo, secondo quanto ha detto Marine Le Pen, che è la leader del Front National, il partito di estrema destra francese, che sapete alle ultime amministrative francesi che sono state un test parziale, però ha comunque avuto un grandissimo successo e quindi ora si avvicina molto forte di questo risultato alle elezioni europee. Molti sondaggi, tra l'altro, la confortano in questo aumento di voti che avrà il suo partito in forza del suo euroscetticismo. Sapete che anche Marine Le Pen sostiene, come per esempio la Lega Nord, che non sarebbe poi così un problema uscire dall'euro. Ebbene, alle Figaro ha dichiarato Marine Le Pen che ci sarà un solo vero gruppo euroscettico, parola che lei non ha nessun problema a usare, e che proprio lei, con il suo partito, il Front National, contribuirà a chiarire. L'obiettivo, ha detto Marine Le Pen alle Figaro, è di pesare al massimo nell'Assemblea, il Parlamento europeo, sapete, è eletto per 5 anni, per limitare i danni utilizzando tutte le armi che saranno a nostra disposizione. Se siamo numerosi e formiamo un gruppo, saremo molto più forti di oggi, avremo più mezzi umani e materiali, potremo respingere, cito testualmente, nelle loro trincee gli ayatollah del libero scambio integrale, dell'euro forte e dell'immigrazione senza limiti. C'è in Europa un altro periodo, un altro partito euroscettico molto forte, che è quello dell'inglese di Nigel Farage, e su questa si è spesso ipotizzato di un'alleanza sia con la Lega che con questo partito. Ma siccome per ora queste alleanze non si sono formate, addirittura in Inghilterra Nigel Farage l'avrebbe rifiutata, Marine Le Pen ha detto: se certi esitano a unirsi a noi ora, saranno spinti a farlo nei mesi a venire, se vogliono continuare a esistere politicamente, si intende. Vedremo, insomma, lei è molto sicura di sé, come vi dicevo. C'è poi invece su Le Monde, quanto abbiamo sentito parlare, quanto ne sentiamo parlare tutti i giorni del patto di stabilità, dei limiti che sono posti all'Italia per rispettare il famoso rapporto del 3% tra deficit e PIL. È un problema che non ha solo l'Italia, naturalmente, in passato l'ha avuto la Germania. Le Monde riporta le dichiarazioni di Manuel Valls, che sapete è il premier francese che François Hollande, ex ministro dell'Interno, François Hollande l'ha scelto, è un politico giovane. Dopo la disfatta, quella di cui parlavamo, le amministrative, la grande affermazione del partito di Marine Le Pen, la disfatta del partito di François Hollande di centro-sinistra, ora la prima uscita di Manuel Valls non è stata per nulla conciliante verso chi diceva che parte della disfatta elettorale fosse dovuta anche alla mancanza di investimenti per far tornare la Francia a crescere. Manuel Valls ha detto che il governo francese non intende fare passi indietro sulla ricetta di austerità, la ricetta naturalmente imposta alla Francia da Bruxelles, così come è imposta all'Italia, così come è imposta alla Grecia, alla Spagna e a tantissimi altri paesi. E quando il piano di stabilità triennale che è stato presentato appunto dal ministro delle Finanze Sapin, che è l'altro ministro forte in questo momento del governo Hollande, contiene ulteriori tagli alla spesa per 4 miliardi, quindi non investimenti, investimenti diretti dello Stato, ma tagli. E ha detto, insomma, in un'intervista senza mezzi termini, Manuel Valls: non è rifiutando la realtà o moderando le decisioni che la Francia potrà cavarsela. Non siamo in una logica del tutto o niente, ma c'è una cosa che non sarà modificata dal governo: i grandi equilibri e la volontà di ridare competitività alle aziende. E a proposito di quanto possono essere efficaci, per quanto dolorosissime le misure che tengono conto di questi stretti vincoli di austerità, i quotidiani portoghesi, per esempio, hanno dato la notizia di questa rivincita dei PIGS, cioè i paesi colpiti dalla crisi dei mercati, che a 4 anni di distanza hanno ricominciato a emettere bond. E nella settimana scorsa, per esempio, nell'asta che si è tenuta in Portogallo, in cui sono stati offerti 750 milioni di euro di titoli dei stati decennali, c'è stata una grandissima domanda. E lo stesso sappiamo è successo anche con il BTP italiano, nel nostro piccolo. O per esempio, come dicono Katimerini, un quotidiano greco, il 10 aprile anche la Grecia è tornata sul mercato con i titoli di Stato dopo un'assenza che appunto durava da 4 anni, quando era scoppiata la crisi del debito e il paese era stato sottoposto al programma di austerità della cosiddetta famigerata Troica, che starebbe per Unione Europea, Banca Centrale Europea, Fondo Monetario Internazionale. Con la collocazione di questi 3 miliardi di euro di buoni del tesoro quinquennali a un tasso di interesse del 4,75% annuo, 3,60 quello dei bond portoghesi, mesi, l'operazione è stata definita un successo. Quindi, insomma, sappiamo che l'austerità è dolorosa e lo sperimentiamo tutti i giorni sulla nostra pelle, però forse se si riesce a entrare in una logica di medio-lungo termine, anche e soprattutto da parte dei politici, come ha fatto il primo ministro francese, ma come sembra intenzionato a fare anche il primo ministro italiano, forse appunto, se allarghiamo un pochino il nostro orizzonte, finita, archiviata definitivamente questa crisi, noi avremo basi più solide per ripartire, noi Italia intendo. Era l'ultima notizia che sono riuscita a darvi, ancora un buon sabato da Giulia Crivelli e mi raccomando, tenete d'occhio l'Europa in vista delle elezioni europee. Rassegna stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.